Vira che bello sciorro in è, o volesse puria, o volesse per me. Sienta cappella d'oro in è, chiodano sto sciartino, mommo la già sapè.